L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità, del rispetto per l'ambiente e oggi della lotta allo spreco. Sentite un po' questi dati e fatevi un esamino di coscienza. Scarti alimentari erano a livello europeo erano 89 milioni di tonnellate nel 2006 e tra 10 anni arriveremo a 126 milioni di tonnellate, quindi più un aumento di più del 30% in poco più di 10 anni. Qui si parla di cibo che non viene utilizzato. Tra il 30 e il 40% dello scarto alimentare è origine nelle famiglie, l'altra parte ha origine nella distribuzione, è molto importante lo scarto alimentare nella distribuzione e nella produzione. A riferirli è Paola Testori Coggi, che dal 2010 guida la Direzione Generale Salute e Consumatori dell'Unione Europea. Ne abbiamo già parlato diffusamente nei reportage di Radio 24, che potrete riascoltare dal nostro sito da lunedì. Andate nella sezione programmi e selezionate appunto reportage. I dati di cui parla la Testori Coggi sono riferiti alla media europea, appunto, ma non crediate che le cose vadano meglio qui da noi. Ne parlammo già qualche tempo fa con il professor Andrea Segre, preside della Facoltà di Agraria di Bologna e autore, con il ricercatore Luca Falasconi, del Libro Nero dello Spreco in Italia, Edizioni Ambiente. Ecco cosa ci disse. Do un dato così si capisce di cosa stiamo parlando. Ogni anno in media in Italia un italiano produce 700 kg di rifiuti. Metà sono imballaggi, e già questo ci dovrebbe un po' far pensare. Della rimanente metà, una parte, diciamo, abbondante, fino a 2/3, è ancora consumabile se si tratta di cibo o utilizzabile, cioè altri beni. Vuol dire che noi produciamo troppo rispetto, diciamo, a quanto si consuma, e questo scarto, questa perdita, questo spreco diventa un costo, perché sono rifiuti. Quindi un costo ambientale, dobbiamo smaltirli, un costo economico, ci costano, un costo che poi si riflette sul prezzo degli altri beni. Quindi il ragionamento va fatto proprio in un'ottica spreco uguale fallimento del mercato. Ecco, quindi c'è poco da stare allegri. In Italia si spreca come nel resto d'Europa. Come accennava anche Segre, sprecare cibo significa più spazzatura, ad esempio, ma significa anche un inutile consumo di acqua per la produzione e la lavorazione, ma anche di carburanti per i trasporti, di risorse per gli imballaggi, di energia per le apparecchiature, senza poi contare il lavoro di migliaia di addetti. Come migliorare? Testa sulle spalle e riorganizzazione, nella spesa quotidiana come nelle aziende. Secondo la FAO, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Cibo e l'Agricoltura, ad essere sprecati sono soprattutto frutta e verdura, radici e tuberi. Colpa dei troppi 3x2 che incentivano l'acquisto dissennato, dei piatti pronti troppo grandi, dei buffet a prezzo fisso che inducono a riempirsi il piatto di tutto senza però godersi niente, aggiungiamo. Per recuperare il senso delle cose basterebbe ricominciare a frequentare le campagne, dice la FAO, e acquistare prodotti freschi nei mercatini a filiera corta. Un tema di cui si dibatterà presto a Ripa di San Ginesio per la seconda edizione di un festival piccolo ma già rinomato, di cui parliamo con Damiano Giacomelli, assessore alla cultura del comune di Ripa di San Ginesio. Borgo Futuro, in tutte le tematiche che affronta, parte da un sistema relativamente chiuso, ecco, che tradizionalmente è quello del borgo, del piccolo paese, diciamo, come ce ne sono moltissimi nel centro Italia, in realtà in tutta Italia, che è molto provinciale. Questo tipo di sistemi che, diciamo, sono tradizionalmente chiusi, nel senso che c'è all'interno di un piccolissimo sistema, nel nostro caso un paese di 700 abitanti, la garanzia di tutti i servizi essenziali. In realtà, da un certo punto di vista, pur non esaltando noi questa chiusura, infatti cercando di aprirla, però da un certo punto di vista il vantaggio vero di questo sistema è che c'è un controllo diretto, diciamo, delle risorse necessarie a una piccola comunità, e attraverso questo controllo si riesce a non sprecare, quindi si riesce a non produrre più di quello che serve, si riesce a produrlo vicino, e quindi c'è tutto il discorso del chilometri zero, del metri zero veramente nel nostro caso, e si riesce a controllare meglio tutto il meccanismo, e questo riguarda assolutamente anche il cibo. Abbiamo una collaborazione già in atto con il movimento della decrescita felice e si è creato un bel gruppo, tra l'altro, nell'entroterra di cui facciamo parte, insomma al centro, diciamo, della provincia di Macerata. La vostra esperienza può, quindi qui veniamo forse anche più proprio al festival in sé, essere poi dopo trasmessa ad altri, no? Diciamo che fino a 20 anni fa questo era un discorso che riguardava quei 700 di cui le ho parlato. E oggi però non è un caso che la nostra promozione sia sviluppata soprattutto su web e che il nostro pubblico sia soprattutto, diciamo, insomma, venga un po' da tutta Italia nella 3 giorni della manifestazione. Oggi questo modello qui, che è un piccolo modello di solito isolato alle singole realtà, attraverso il web, attraverso quindi, diciamo, una condivisione tematica legata appunto alla passione, agli interessi personali, diventa in un certo senso esportabile, virtuoso in senso lato, non solo per il nostro paese, ma in realtà fruibile per certi versi in tutta Italia. Ci fa qualche esempio dei temi che saranno in discussione quest'anno? Facciamo un lavoro su Ora et Labora, per cui si farà tutto un lavoro sul rapporto tra fede e sostenibilità, non solo cattolico, insomma, per ragionare un po' sulla spiritualità che comunque è molto presente nelle nostre terre e come questa spiritualità dovrebbe rapportarsi a un maggior rispetto per l'ambiente, a una maggiore relazione appunto con i frutti di questo ambiente. Faremo un lavoro sull'agricoltura, sulla produzione, che era poi l'attività principale, come diceva lei, nei nostri territori. E faremo questo incontro importante che inaugurerà il festival, diretto, diciamo, moderato da Andrea Vianello, a cui parteciperanno alcuni dei rappresentanti più importanti in materia nazionali, soprattutto legati al biologico, ma in realtà poi in maniera più ampia a un'agricoltura di qualità, che è un po' una svolta che diversi agricoltori delle nostre zone vorrebbero fare, quindi stiamo cercando di accompagnare delle tendenze che si sono create dalla nostra prima edizione l'anno scorso. Per qualche consiglio pratico su come ridurre gli sprechi riutilizzando, facendosi l'orto o frequentando ristoranti sostenibili, tra virgolette, trovate buoni spunti anche su www.nonsprecare.it, sito diretto da Antonio Galdo, che tra l'altro fu nostro ospite qualche settimana fa. Nel mondo delle imprese invece può aiutare Last Minute Market, una SRL nata come spin-off dell'Università di Bologna da un'idea del sempre attivo professor Segre e dal suo collaboratore Luca Falasconi. Last Minute Market ha iniziato coordinando la richiesta di chi ha bisogno di cibo con le eccedenze della grande distribuzione, ma ha finito con il realizzare un modello di razionalizzazione e riduzione degli sprechi valido per tutti. Quando andiamo ad acquistare il prodotto alimentare, che è fondamentale, bisogno primario, ecco, dobbiamo essere, quando dico, più consapevoli. Adesso io penso alla spesa che si fa nella grande distribuzione, perché poi abbiamo poco tempo, ecco, se uno va con 10 cose, una lista di 10 beni da acquistare, devono essere quelli, non farsi soggiogare o tentare dalle offerte, le offertine, il 2x3, 3x4. Insomma, dobbiamo rispondere all'interrogativo se siamo noi che andiamo, quando andiamo a fare la spesa, spingiamo il carrello, oppure il carrello che spinge noi, ponendoci un po' così questo comportamento bulimico dove ci riempiamo di cibo e di tante altre cose che poi dopo in realtà gettiamo via. Va bene recuperarlo come facciamo noi e darlo, anzi donarlo a chi ha bisogno. La Smart Market è questo, fa da tramite tra un donatore e un beneficiario, ed è potente perché crea un legame fra due categorie apparentemente molto distanti, l'impresa e l'ente caritativo. Va bene, però dobbiamo ridurre gli sprechi, cioè questo è un imperativo. Spreco è veramente un fallimento del mercato, vuol dire che è poco efficiente il mercato. Infatti, chi adotta la Smart Market, do un dato, senza citare la catena, un ipermercato, il primo che è partito nel nostro progetto nel 2003, il primo anno recuperava 172 tonnellate di cibo perfettamente consumabile, sono 17 tir che non vanno in discarica, 300-400 persone che mangiano ogni giorno. L'ultimo dato che ho in testa, 2009, stesso ipermercati, giro d'affare è aumentato, quindi vendono di più, le tonnellate recuperate sono, fra virgolette, soltanto 90, e uno dice, avranno venduto di meno. No, hanno sprecato di meno, perché hanno capito dove sbagliano, e noi abbiamo un elenco, diciamo, di azioni così legate all'efficienza dell'organizzazione che riducono gli sprechi, e questo è il vero obiettivo. Infatti come lo chiamiamo spreco zero. la stessa cosa che può accadere nei trasporti, di chi rende il movimento delle proprie merci più efficiente. Cioè, alla fine esatto. Si guadagna, si fa fatica all'inizio magari a cambiare l'organizzazione, però poi dopo, in tempi relativamente brevi, le cose cambiano e migliorano. Esattamente. E quando il nostro obiettivo, la Smart Market è uno spin-off dell'università, c'è una SRL, ecco, per dire, non è volontariato, questa è una nuova professione che abbiamo in qualche modo creato. Io chiamo i ragazzi che sono soci dello spin-off, i miei food busters, i cacciatori di cibo. In realtà loro offrono un servizio molto competente che permette in modo sostenibile di raccogliere il cibo e di darlo a chi ha bisogno, prevenendo la formazione di rifiuti. Ogni prodotto recuperato è un rifiuto in meno, ma l'obiettivo è quello di ridurre lo spreco, e quindi il nostro nuovo lavoro, diciamo, il nostro nuovo certificazione si chiama Spreco Zero, l'abbiamo già applicata, cioè all'interno dell'impresa, vuoi che questa sia un negozio, una caffetteria, un ristorante, adesso lo facciamo con gli eventi, con i comuni, hai delle linee guida che ti portano alla riduzione, in un'ottica di efficienza o se si vuole di ecoefficienza, degli sprechi di cibo, di acqua, di energia, di mobilità, di comunicazione, cioè in modo che l'impresa abbia il risultato subito e non faccia quelle cose che secondo me sono assurde, beh, mi compro 4 ettari di foresta in Amazzonia così compenso la CO2. No, orribile, sì. Me è un modo, diciamo così, un po' peloso per lavarsi la coscienza, ma invece quando è un risultato subito nella tua impresa in termini di efficienza, poi, come dire, stai meglio tu, sta meglio l'ambiente, guadagni, l'obiettivo deve essere il lavoro, quindi insomma bisogna intendersi, il nostro non è un progetto soltanto di solidarietà, va bene anche quello naturalmente, è importante, crea legame, crea relazione, ma è un progetto ambientale, di sostenibilità e dunque anche economico. Fin qui abbiamo parlato di sprechi alimentari e di come ridurli, di come ottimizzare le nostre risorse, ma se proprio scarto ci deve essere, allora pensiamo anche a come utilizzarlo bene. Se ne parla, tra l'altro, nel rapporto Energia del Sole 24 Ore che troverete in edicola lunedì prossimo, il 27 di giugno. Per anticiparci qualcosa dei contenuti di questo rapporto c'è qui con noi Laura Laposta, collega del Sole 24 Ore, che sta coordinando appunto il rapporto. C'è la possibilità dagli scarti delle produzioni agricole in particolare di trarre dei benefici per la comunità? Sì, Laura, è proprio così. Gli scarti alimentari stanno diventando oro. Pensa che ci sono in corso tantissimi investimenti di centrali elettriche a biomasse da scarti alimentari. In particolare, mi raccontava l'avvocato d'affari Carlo Sinatra, che ci aiuta con le istruzioni per l'uso dei nostri rapporti energia rivolte ai consumatori, che addirittura in Campania nelle fabbriche di conserve alimentari, quindi che hanno magari tanti scarti dal pomodoro, stanno creando un maxi progetto per aprire di fianco alla fabbrica una centrale elettrica che produca energia proprio dagli scarti del pomodoro. E questo è una cosa davvero, una scelta davvero molto valida, anche perché questo tipo di energia da fonti rinnovabili è incentivata da precisi incentivi statali, quindi per la prima volta nella storia lo scarto diventa davvero una ricchezza. Lo scarto è ricchezza, ma non di solo questo, no? Si occupa il rapporto che sarà in edicola, lo ricordiamo ancora una volta, lunedì prossimo. Su quali altri temi vi focalizzerete? Noi faremo il punto sulle strategie energetiche italiane dopo il referendum. Gli italiani hanno scelto di non avere un ritorno al nucleare, come pure era nelle intenzioni del governo, e allora andiamo ad analizzare il mix energetico e quindi da dove arriva l'energia che consumiamo quando accendiamo la luce, ma anche quando ci muoviamo, perché è energia anche quella che alimenta i trasporti, anche quando accendiamo la caldaia, anche quella è energia termica. E quindi andiamo a vedere che obiettivi dobbiamo raggiungere in base alla direttiva 2020 dell'Unione Europea, che ci impone anche un uso più efficiente dell'energia entro il 2020. Come siamo messi e come bisogna riscrivere il piano energetico nazionale anche alla luce delle scelte cittadini dopo il referendum. L'altro pianeta. Eccoci di nuovo qui, è il momento, appunto, come dicevamo prima della viabilità, dell'intervista di Cristina Carpinelli. io quando mio padre ha venduto l'azienda sono rimasta sconvolta, la verità, mi è proprio venuta a mancare la terra sotto i piedi, nel senso che avevo capito che non avrei potuto fare nient'altro che questo, l'impresa, ha capito? E per questo che mi sono rimboccata le maniche, sono andata a cercare un'altra impresa, perché non ero un direttore amministrativo, non ero un direttore finanziario, ero una persona che era abituata a vedere le cose a 360 gradi, per cui se non mi rimettevo nella stessa posizione di 360 gradi di portare avanti un progetto. Teresa Menarini è la ragazza borghese di una famiglia di imprenditori bolognesi. Vive bene, va a teatro e mentre la media delle donne italiane ambisce al diploma, lei, spinta dal padre, si prende una laurea in economia. Teresa studia e partecipa alla vita in azienda. Quando il padre, costretto dai tempi, chiude tutto, a Teresa resta un piccolo capitale, ma non ha un progetto. Quasi per caso si imbatte in una società minuscola, la Sibsiber. Il progetto io l'ho trovato in Sibsiber, che era già in bozzo, per cui con tantissime potenzialità. La Sibsiber aveva delle potenzialità enormi, perché trattando di termotecnica e di bruciatori speciali, sostanzialmente bruciatori soprattutto applicati all'industria. Adesso la storia della Sibsiber nasce soprattutto quando io sono arrivata, il 90% dei clienti erano verso le fornaci. In realtà l'applicazione dei bruciatori in vena d'aria, che sono i bruciatori riello, per far capire a tutti, in America hanno solo bruciatori in vena d'aria come prodotto e non sanno cos'è un bruciatore a fiamma a getto unico. In realtà un bruciatore ha un'ampiezza di calore, potenzialità, modulazione di calore, eccetera, vastissimo. Ma le potenzialità dello scambiatore, di tanti prodotti che ci sono affini e la conoscenza della termotecnica mi aveva assolutamente fatto capire che aveva delle grandissime possibilità. Quando sono entrata definitivamente, perché per un po', come le ho detto prima, facevo avanti e indietro da Roma a Bologna, eccetera, quando sono riuscita a capire meglio il prodotto, infarinatura, non è che io sono bravissima tecnicamente, ma aveva montato già il primo post combustore. Il primo post combustore aveva la funzione derivato del bruciatore in vena d'aria con una camera di compensazione che abbatteva, gliela faccio breve, le sostanze nocive che vanno nell'aria. Turbomass è un'idea all'avanguardia da tantissimi anni dunque, talmente avanti che non ha competitori, almeno per ora, in tutto il mondo. E questo è un primato tutto italiano di cui ci si può vantare. Abbiamo una domanda vastissima, nel senso che io dico che la richiesta di offerte sembra il Teleton, sa, quei numeretti che girano continuamente. Chiaro, il prodotto è nuovo, è innovativo tantissimo, nel senso che si brucia biomassa, si ottiene energia elettrica e termica direttamente, senza passare per l'acqua, quindi è una cosa e può essere collocata soprattutto il nostro core business. Noi ci muoviamo verso i clienti che hanno biomassa da smaltire, che se no verrebbe bruciata o messa smaltita, tipo la pollina, insomma, che dà un certo tipo di problemi. Ma abbiamo trovato questa nicchia di mercato che è ricchissima, è veramente una vena molto ricca. Io vedo che voi comunque come azienda continuate a investire sui nuovi progetti, prendete ragazzi, cioè state continuando, comunque non vi siete fermati, avete... Guardi, la lacrimuccia gliela tiro giù, nel senso che con le unghie e con i denti, è chiaro, investiamo, ho fatto l'aumento di capitale sociale, cioè io sto investendo, continuo a investire perché è indispensabile, perché qualcuno arriverà a fare il turbo, ma non oggi, non domani, ma 2 anni, 3 anni, qualcun altro mi arriva di concorrenti. Io devo essere così brava di aver fatto un turbo mass con qualcosa, uno studio nuovo che è ancora più innovativo. L'azienda è ricerca. E adesso spazio a Marco Carminati per la rubrica Articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati, benvenuti. Abbiamo oggi in collegamento con noi la Presidente di Italia Nostra, Alessandra Mottola Molfino. Buongiorno Presidente. Buongiorno Marco, ecco, Carminati. Dove ci porta Presidente Mottola Molfino? Quello che vorrei farvi vedere oggi è un monumento di grandissima, eccezionale importanza nella storia dell'arte e della pittura italiana. Diciamo che siamo agli albori dell'identità pittorica italiana, siamo qualche decennio dopo l'anno 1000. Io vi porto alle pendici dei Monti Tifatini, che sono dei monti che circondano la piana di Capua e di Caserta. Infatti questa basilica, questa chiesa è a pochi chilometri da Capua. Si sale in alto verso le pendici di questi monti, dove un tempo, in epoca romana, c'era un santuario dedicato alla dea Diana e dove oggi c'è una chiesa ricca di affreschi meravigliosi, e la chiesa si chiama Sant'Angelo in Formis. Ah certo, famosissima per chiunque abbia studiato storia dell'arte. Infatti io la considero un po' una Cappella Sistina del Medioevo, perché è in un luogo così lontano dai grandi traffici e però riveste un'importanza eccezionale dal punto di vista pittorico, perché fu decorata negli anni tra il 1072 e il 1087 da artisti bizantini e campani su ordine dell'abate di Montecassino Desiderio, un abate benedettino che voleva evangelizzare anche in qualche modo questa zona, un tempo pagana, poi longobarda. Infatti sopra il tempio di Diana ci stava una chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, ecco perché il nome Angelo, e in formis significa che sta vicino agli acquedotti, alle fonti d'acqua, e questo è infatti, come vedremo, uno dei problemi poi per la chiesa. Ecco, lei ha parlato, ha detto la parola, il problema, perché lei ci porta a vedere un luogo meraviglioso, importantissimo dal punto di vista storico-artistico, rimasto intatto per secoli, però voi di Italia Nostra, quando segnalate queste cose, è perché dietro si nasconde un problema spesso molto rilevante. Di che cosa soffre Sant'Angelo in Formis? La chiesa non è grande, è abbastanza piccola, si vedono le pareti completamente affrescate con le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento. Queste storie, questi affreschi colorati di bellissimi sgargianti colori, come dicevo, prodotto dell'arte bizantina e campana, perché probabilmente sono gli artisti locali che poi hanno declinato le idee bizantine su queste pareti. Sono fessurate queste pareti, raccontano il messaggio di Gregorio Magno e la funzione delle pitture, perché Gregorio Magno, che voleva trasmettere il messaggio di salvezza e il messaggio cattolico e cristiano su tutta l'Italia meridionale, che era stata molto bizantina, diceva testualmente: la pittura si impiega nelle chiese affinché coloro che non sanno leggere leggano almeno sulle pareti, ecco, vedendo le stesse cose che non saprebbero leggere. Ecco, però questi affreschi, come ci diceva lei, soffrono perché ci sono delle fessurazioni, mi sembra che ci siano anche dei puntelli, eccetera, eccetera. Sì. Che cosa si può fare per mettere in sicurezza un tesoro del genere? Intanto ci sono delle puntellature che datano dal 2008. Quindi sono praticamente 3 o 4 anni che è puntellata la chiesa, anche le capriate della navata centrale, e finora sono in opera questi puntelli. Questo ci fa capire, i nostri esperti, le nostre sentinelle sul territorio hanno pensato giustamente che queste fessurazioni vengono da gravi problemi statici che probabilmente sono legati all'instabilità geologica del sottosuolo, queste fonti, questi rivi sotterranei che danno anche il nome alla Chiesa sono probabilmente imputati di uno scivolamento tra le due falde, una falda argillosa e la falda rocciosa. Quindi noi chiediamo alla soprintendenza, allo Stato, di dare fondi e competenze su questa chiesa così straordinaria. Non si può rinviare più una indagine approfondita sullo stato di dissesto delle fondazioni, ecco, e sulle cause. E quindi qui dobbiamo veramente chiedere al nostro Stato, al nostro Ministero dei Beni Culturali e alle soprintendenze locali di non lesinare, perché qui bisogna fare delle indagini molto approfondite e molto serie, altrimenti fra pochi anni, fra poco tempo ci troviamo con queste fessure in peggiori condizioni. Inoltre tutta la zona è un po' abbandonata, in stato un po' di degrado, e questa situazione crea pericoli di vario genere. Perfetto. Senta, Presidente, grazie per questa sua, per questo suo racconto innanzitutto, e soprattutto per questo appello che lei fa alle autorità dello Stato e della sovrintendenza, perché si prendano a cuore subito il destino di questa importantissima chiesa che, come abbiamo potuto apprendere dal suo racconto, è davvero in pericolo. Ringrazio molto Alessandra Mottola Molfino per questa sua partecipazione. Grazie, Presidente. E grazie a voi. Alla prossima, e ringrazio tutti gli ascoltatori. È tutto anche per questa puntata dell'Altro Pianeta. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, vi ricordo, laura.bettini@radio24.it oppure laltropianeta@radio24.it.